24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. L'OCSE accusa l'Italia. Corruzione elevata è un freno per la crescita. E il Senato approva la Convenzione di Strasburgo contro le bustarelle. Via libera definitivo al secondo piano salva Grecia e ai 130 miliardi di aiuti in calo alla crescita dei paesi del G20. Si chiude dopo 20 anni la guerra della bistecca tra Unione Europea, Stati Uniti e Canada. L'Enciclopedia Britannica abbandona la carta, sarà soltanto digitale. Benvenuti da Paolo Panceri a una nuova edizione di 24 ore in Europa. Secondo il capo economista dell'OCSE, Giancarlo Padoan, in Italia l'elevata corruzione è un freno per la crescita. È quindi essenziale una lotta contro questo fenomeno che produce un costo in termini di competitività. Padoan ha parlato alla Camera nel corso di un'audizione in Commissione Bilancio. La lotta alla corruzione, ha detto ancora, dovrebbe assolutamente entrare nel pacchetto di riforme prioritarie per l'Italia. E in serata il Senato, quasi in risposta, Padoan ha approvato con 243 sì e 5 astenuti la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione stipulata il 27 gennaio 1999. Alla Camera tocca ora la ratifica definitiva. L'Italia in questo modo si impegnerà a introdurre nell'ordinamento penale misure per contrastare la corruzione. Via libera definitiva al secondo piano salva Grecia e ai 130 miliardi di aiuti, lo ha comunicato il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker in una nota in cui precisa che gli aiuti verranno versati in diverse tranche. E secondo FMI e OCSE frena la crescita dei paesi del G20. Nel quarto trimestre dell'anno scorso il PIL è aumentato di appena lo 0,7% contro lo 0,9% dei tre mesi precedenti. Nel 2011 il PIL è cresciuto complessivamente del 2,8%, una netta decelerazione rispetto al più 5% dell'anno precedente. A trainare sono sempre i paesi emergenti, mentre gli Stati Uniti hanno fatto registrare negli ultimi tre mesi del 2011 un più 0,7%, peggio Unione Europea ed Eurozona, entrambe con un meno 0,3%. E veniamo alla giornata di borsa, l'Europa chiude a segni contrastanti. Le borse europee continuano in rally, ma Milano, depressa da alcuni titoli bancari, perde il passo e nel pomeriggio di ieri ha annullato buona parte dei guadagni. Così Parigi ha guadagnato lo 0,4%, Francoforte l'1,2%, mentre a Piazza Affari il FTSE MIB ha recuperato solo lo 0,31%. Negativa invece Londra, meno 0,19%. Tra i peggiori titoli di Milano, TOZ, meno 2,9%, subisce realizzi dopo il balzo dell'altro ieri, seguito ai conti 2011. La popolare Emilia Romagna, meno 2,5%, paga la deludente presentazione del piano 2012-2014. Giù ancora di Assorin, meno 1,5%. Realizzi anche sulle utility, a partire da A2A, meno 0,5%, e Snam, meno 0,8%. Brillano invece Mediolanum, un più 4,6%, insieme a tutto il risparmio gestito, e Ferragamo, più 3,3%, ai massimi storici, in scia ai conti brillanti della tedesca Hugo Boss. ST avanza del 3% e Fiat del 2,5%. MPS infine cresce dell'1,8% con l'avvicinarsi della cessione del pacchetto della fondazione fino al 15%, mentre Pirelli, più 1%, continua ancora a cavalcare i conti 2011. CEO Condina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. Ieri nuovo incontro governo-sindacati sulla riforma del mercato del lavoro. Al centro del dibattito e dello scontro gli ammortizzatori sociali, ma sentiamo come funzionano all'estero. Secondo l'idea del governo resterebbe in piedi la cassa integrazione, ma solo nei casi in cui è previsto un rientro in azienda. Continuerebbe a vivere anche la cassa straordinaria, ma solo in caso di ristrutturazione e riconversione aziendale. L'indennità di mobilità dovrebbe sparire con il passaggio al nuovo sussidio di disoccupazione, con un nuovo livello di contribuzione e tempistica ridotta. In Europa gli ammortizzatori sociali ci sono diversi dai nostri e spesso ottengono risultati migliori. Partiamo dai costi. La percentuale di PIL destinato ogni anno agli ammortizzatori in Italia è sotto la media europea, circa l'1,7% contro un 2% generale. Diverse anche le tutele. In Germania, per esempio, non esiste un istituto simile alla cassa integrazione. Chi si trova a dover chiedere l'indennità di disoccupazione deve essere stato assicurato per almeno 12 mesi negli ultimi due anni. Sono previste tutele anche per chi è alla ricerca del primo lavoro. In Spagna è necessario aver lavorato almeno 3 anni negli ultimi 6 per poter avere l'indennità di disoccupazione, ma l'assistenza è estesa anche a chi non ha un lavoro, una misura attiva anche in Francia, Irlanda, Lituania, Portogallo, Gran Bretagna e Finlandia. Valeria De Rosa, Radio 24, il Sole 24 Ore. Ora la cronaca con l'incidente avvenuto in Svizzera che ha provocato la morte di 22 bambini belgi, mentre 3 sono in coma. Mai visto nulla di simile, una situazione orribile. Così il portavoce della polizia ha descritto la scena presentata presentatasi ai soccorritori giunti sul luogo dell'incidente nel tunnel nei pressi di Sierre, dove un pullman che rientrava in Belgio con due scolaresche a bordo si è schiantato contro una parete. Ci sono volute 8 ore per tirare fuori i bambini dalle lamiere. Quelli ricoverati, alcuni in gravi condizioni, sono assistiti da un'equipe di psicologi. Nell'impatto violentissimo sono morti anche i due autisti e ora si cerca di ricostruire le cause dell'incidente. L'ipotesi più accreditata sui siti di informazione svizzeri e belgi è quella di un colpo di sonno dell'autista unito alla velocità eccessiva. Un giorno tragico per il Belgio, lo ha definito il primo ministro Elio Di Rupo, mentre il Ministero della Difesa ha messo a disposizione 2 aerei per permettere alle famiglie delle vittime e dei feriti di raggiungere il luogo del disastro. Quello di ieri sera è il più grave incidente stradale registrato in Svizzera negli ultimi 30 anni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si terrà il 22 marzo l'incontro a Roma tra il ministro degli esteri Giulio Terzi e il collega britannico William Hague. Al centro dell'incontro il blitz in Nigeria, durante il quale è morto anche l'italiano Franco La Molinara. Terzi, nell'informativa alla Camera di ieri, ha confermato che continuerà la collaborazione tra Italia e Gran Bretagna. Si chiude dopo 20 anni la guerra della bistecca tra Unione Europea, Stati Uniti e Canada. La plenaria del Parlamento Europeo ha convalidato infatti l'accordo che permette all'Europa di mantenere il suo no alle carni con ormoni prodotti in Nord America in cambio di un aumento delle quote di importazione di carni di alta qualità. La guerra era partita con il divieto europeo del 1989 alla commercializzazione di carni di bovini trattati con ormoni. E parliamo ora dell'Enciclopedia Britannica, che abbandona la carta e che d'ora in avanti sarà soltanto digitale. L'Enciclopedia Britannica soccombe all'era digitale. 244 anni dopo la sua prima edizione stampata in Scozia, la prestigiosa enciclopedia rinuncia alla carta. D'ora in poi sarà esclusivamente in versione digitale online. È un rito di passaggio in questa nuova era, ha detto al New York Times George Coates, il presidente della società editoriale che, a differenza di quanto suggerisce il nome, ha base a Chicago, negli Stati Uniti. Dall'edizione cartacea deriva ormai solo l'1% delle vendite, da quella online il 15% circa. Il resto arriva dai prodotti educativi come gli strumenti per l'apprendimento sul web. L'annuncio ufficiale di questa svolta epocale arriverà oggi, ma già si sa che quella stampata nel 2010, i volumi venivano aggiornati ogni 2 anni, sarà l'ultima edizione su carta. 32 volumi, 60 kg di peso, costo $1,395. D'ora in poi ne basteranno 70, il costo dell'abbonamento annuale, per poter consultare la versione online. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Italia si conferma una nazione a forte tasso di immigrazione, con una quota di clandestini pari a circa il 10% delle presenze sul nostro territorio. Sono alcuni dei dati contenuti nel quarto rapporto a cura dello European Migration Network Italia sul tema canali migratori, visti e flussi regolari, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS e del Ministero dell'Interno. Il curatore del rapporto, Antonio Ricci dell'IDOS. Il fenomeno rimane e la crisi economica lo acuisce. Sotto alcuni punti di vista, per alcuni paesi la pressione migratoria è molto scemata, però attenzione, perché questo non toglie che ancora ci sia presente in Italia un contingente significativo di migranti irregolari. Si può stimare che essi siano circa il 10% dell'attuale presenza regolare, quindi le stime che sono state presentate erano di 500.000 di migranti irregolari. Ancora in Italia, dalla Basilicata arriva una storia di calcio e pregiudizi. Prima il sospetto, poi la quasi certezza seguita dalla smentita e dal dubbio che alla fine rimane. È una storia di calcio e pregiudizi, quella che arriva da Matera, dove ogni anno a giugno si svolge la Coppa Scirea, trofeo giovanile under 16 dedicato alla memoria dell'ex campione juventino, esempio di correttezza e integrità morale. L'organizzazione invita squadre italiane e straniere, tra queste i serbi del Partizan Belgrado, ma anche i bosniaci dello Zeleznikar Sarajevo, la kosovara Beze Peje e la macedone Renova Tetovo. All'improvviso però bosniaci, kosovari e macedoni spariscono dall'elenco delle squadre partecipanti e alcuni fanno filtrare che dietro al ritiro vi sarebbe proprio il veto nazionalista dei serbi del Partizan. Un boicottaggio calcistico che rischia di far scoppiare una guerra diplomatica. Poi gli organizzatori provano a spiegare. Per ospitare ogni squadra servono circa 13.000 euro, cifra che avrebbe scoraggiato i team balcanici. Tutti tranne il Partizan. Vicenda torbida e scuse che traballano, ma ci permettiamo di lanciare una proposta che sa anche di sfida. Che imprenditori locali, istituzioni e cittadini di buona volontà aprano una sottoscrizione per pagare l'iscrizione e l'alloggio a bosniaci, kosovari e macedoni. Poi chi è più forte lo deciderà il campo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Ancora un saluto da Paolo Panceri. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.